fortuna possa passare. Dai, vieni che ti faccio saltare, dobbiamo continuare a camminare. Dai, fammi sapere se anche tu ti vuoi divertire. La luna di mattina ti sta ad aspettare. Ti sta ad aspettare.